Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Innanzitutto io sono nonno, quindi ho dei nipoti anch'io. Non parlo dei bambini, perché guai chi parla dei bambini, perché io parlo dei genitori che non sanno educare i loro figli. Io quando andavo al ristorante con papà, faccio un esempio, prima di essere cioè, se ti muovi ti spacco le gambe, io entravo fermo. I bambini oggi corrono, fanno, vanno sotto i tavoli, le mamme che incurate proprio non li guardano proprio. Cioè io devo lavorare, non posso pensare di mettere 15 passeggini dentro il mio ristorante e non si lavora, ecco qual è il motivo. Non c'ho niente contro i bambini, per carità, che io non esiste. È un continuo che mi chiedono dei bambini, dei passeggini, ma ripeto, non ce l'ho. Io magari trovo un ristorante con 4 sale e farò una sala soltanto per i bambini, ma io devo lavorare, purtroppo questi seggiolini, questi passeggini. Già ho capito chi sarà la prossima vittima, concretamente rappresentata da un fantoccio che sarà bruciato su un palo al centro di Piazza San Giovanni il giorno del Family Day. Sarà l'incauto ristoratore della Fraschetta del Pesce, ristorante romano, che da 2 anni ha un cartello legittimo dal punto di vista giuridico di fronte al suo ristorante, con un passeggino con il segnale di divieto, con un seggiolino con il segnale di divieto, con un bimbo piangente e schizzante con il segnale di divieto. E dice: a causa di episodi spiacevoli dovuti alla mancanza di educazione, in questo locale non è gradita la presenza di bambini minori di 5 anni, nonché l'ingresso di passeggini o seggioloni per motivi di spazio. Certi la vostra comprensione, si ringrazia anticipatamente la gentilissima clientela, il comandante. Ora, questo signore, che avete sentito l'intervista fatta al Fatto Quotidiano, oggi è al centro dell'attenzione mediatica perché qualcuno ben pensante ha visto questo cartello inorridito. Pare che sarebbe inorridito se fosse scritto vietato l'ingresso ai cani e gatti, non vi crediate ci sia differenza nella percezione web generale. Comunque dice: come in un nostro paese in cui i bambini sono il fiore della nostra gioia, il frutto del nostro ventre, il suggello concreto e reale dell'unione matrimoniale, il sintomo reale che la famiglia naturalmente costituita esiste, li mettete fuori dai ristoranti? E lui dice: sì, ho 100 coperti. Si comincia ad entrare ai passeggini, già comincia a essere un problema. Seconda, il bimbo minchia, che è il tipico frequentatore del ristorante italiano, è un elemento di forte disturbo. E io mi associo alla crociata del comandante, di coloro che l'appoggiano, e sono ferocemente contrario a quelli che dicono: no, non è possibile, la legge lo permette. Io posso dire: nel mio ristorante non voglio bambini sotto i 5 anni perché è una gestione complicata. Vi dico velocemente un mio episodio autobiografico. Io recentemente stavo in un bellissimo ristorante in cui apparentemente uno pretende anche un po' di tranquillità dato il livello del servizio. Stavo con mio figlio, che è autistico, quindi in sé dovrebbe essere un rompicoglioni per eccellenza, ma mangia come un lord inglese. Accanto a me c'era una coppia con 2 bimbi minchia orrendi, di quelli con i capelli a frangetta tagliati squadrati, di quelli tutti vestiti già con gli abiti griffati dei grandi, che scorazzavano sotto i tavoli, non paghi, hanno anche portato il triciclo, avevano un triciclo e giravano con il triciclo fra i tavoli. E i genitori, invece di contenerli in qualche maniera, guardavano fieri gli altri come per cercare uno sguardo di compiacimento. Mi dice: guarda, vedi che belli, fanno sorridere. Ora, nessuno sorrideva, erano tutti incazzati, e questi bambini giravano con la cotoletta fra i denti, urlando, schifando, buttandosi sotto i tavoli, rompendo le palle a tutti, e nessuno aveva il coraggio di prenderli per la collottola e buttarli fuori. Quindi viva il comandante, viva tutti coloro che seguiranno questa iniziativa. 800 24 00 24. Il problema dei bambini molesti nei ristoranti. Melog. Cronache meridiane. Vengono con bambini, li lasciavano fuori i primi tempi, dove io dicevo: signora, il pupo si fa male, stanno passando i camerieri, che cosa gli posso fare? Un bambino mica lo posso legare. Oppure avevo un timone davanti all'entrata, ma un timone vero di una vela, sì. I bambini tutti a girarlo, le mamme: non vedete cosa c'è scritto? Ma come non c'è scritto? Bambino di 1 anno, ma come sa legge? Ma è la mamma che deve leggere, certo. Ecco, io quello che dico a lei lo dico a tutti. Anzi, se mi passa a trovare vi faccio vedere tutte le scritte, tutto quello che ho nel ristorante e quelle che facevano prima fino a 1 anno fa, tutto là. Pensate, il comandante nel suo La Fraschetta del Pesce aveva un timone da nave per dare il senso marino di quel ristorante in cui si mangiava, si mangia tuttora dell'ottimo pesce. I bimbi minchia, scatenati naturalmente, andavano tutti a giocare con il piccolo capitano Uncino e giravano quel timone, creando dei grandi problemi. I genitori cadevano dalle nuvole. In realtà il problema è la percezione concreta e reale che si ha della totale ingestibilità dei bambini da parte dei genitori, perlomeno di nuova generazione. Oggi tutti hanno il diritto di andare al ristorante, perché già discriminate che i figli, già fa tanti sacrifici, già tanto è una rarità, è una novità e via dicendo, capito? Sì, ma ho capito, tutti abbiamo avuto i figli piccoli, nessuno è sentito in dovere dover rompere le scatole alle altre persone. Se c'è il figlio piccolo ti prendi gli oneri del figlio piccolo. Al ristorante non ci vai, vai in dei luoghi adatti a figli piccoli, sono dei mega ristoranti fatti apposta in cui ti danno il seggiolone, ti dicono bravo, ti mettono in un angolo. C'è talmente tanto casino in cui si sa che è un posto dove vanno anche i bambini. In un posto esclusivo con 100 coperti in cui la gente va per star tranquilla, è il suo diritto stare tranquilla, non si portano i bambini piccoli, a meno che siano bambini ben educati, che sappiano stare a tavola seduti, sappiano stare in silenzio, sappiano mangiare con moderazione e tranquillità. Ma è impossibile che un bambino sotto i 5 anni sia così, non è un cane ammaestrato e non è nemmeno la soluzione dargli in mano il tablet o il telefonino e via dicendo, che fanno ancora più casino perché lo tengono a tutto volume, quindi vogliono sentire anche le musichette elettroniche e i loro giochetti. Come la pensate voi? 800240024. Santo, buongiorno. Buongiorno a lei. Il suo punto di vista. Il mio punto di vista, io ho 3 figli e quando erano piccoli non sono mai andato in nessun posto dove non erano posto che andava bene per i figli. Ci sono posti da bambini, diciamo la verità, ce ne stanno tanti di ristoranti che puoi andare con i figli. Bravissimo, bravissimo. Io quando andavo in condizioni di qualche occasione che non potevo mancare con i miei figli c'era un compromesso. Dopo un'ora un bambino puoi tenerlo a bada, dopo l'ora hanno ragione completamente loro. Soprattutto se logicamente in un ristorante bisogna fare un po' di attesa, perché uno mica va solo a mangiare, va a conversare, sono da aspettare 20 minuti. Da stare tranquilli. Non se ne fa un problema. Soldi. Assolutamente, sono pienamente d'accordo. Per cui approvo pienamente questo ristoratore che abbia fatto questo divieto, perché ci sono alcuni genitori che non si interessano totalmente dei propri figli, li lasciano a loro stessi e sono i camerieri o il personale che lavora che deve esattamente guardare i figli altrui. Per cui approvo pienamente. Io ho avuto i figli e ci sono tantissimi posti dove poter andare. Difatti io McDonald's, sono un grande investitore di McDonald's. Ma anche queste pizzerie dai nomi divertenti, uno va e sono fatte apposta per i bambini, quelle sono dei grandi stanzoni dove c'hanno file di seggioloni, se anche il bambino fa un po' di casino la pizza arriva subito, mangia, ci può anche stare, un posto per famiglie. Ma i posti non per famiglie non vanno imposti i figli, questa sorta di capolavoro che hai fatto e devono tutti invidiarti. Chi se ne fa se li tiene. Eugenia, buongiorno. Buongiorno, io volevo dare diciamo il mio contributo. Io al mare, allora eravamo a Torvaianica, siamo andati con degli amici che avevano dei figli dell'età dei miei, cioè sui 6-7 anni, in un bel ristorante. I bambini di questi amici non hanno fatto che correre tra le gambe dei camerieri finché hanno fatto cadere quel che aveva in mano un cameriere. I miei figli a un certo punto non sono stata più in grado di tenerli perché li avevano fatti diventare, non so dove, insomma anche loro un po' birichini. Alla fine le dico che io con questi amici non siamo più andati da nessuna parte, mi sono vergognata come un cane, e la mamma ha detto vabbè lasciamoli fare, li abbiamo fatti per gli italiani, che gli italiani se li godano. Questo è stato a parte. Ma che vuol dire? Ci sono ristoranti che addirittura hanno le tovagliette, ti danno anche dei pennarelli, dei colori, dove i bambini possono disegnare. Sono ristoranti studiati, fatti apposta, i cui loro target sono famiglie con bambini. Uno va da lì. Non è divertente vedere i bambini scatenati, nemmeno divertente vedere il cagnolino che ti passa sotto i piedi se non ti piace l'odore di pelo di cane. È esattamente la stessa cosa, sono esseri viventi e senzienti, come piace dire a tante persone, che chi ama la loro compagnia, chi ama e chi investe affettivamente sulla loro presenza, però non può imporli agli altri. Sentiamo Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Sì. Senta, io volevo dare la mia esperienza diretta attraverso mia cognata che vive negli Stati Uniti. Ecco, questo mi interessava, credo, l'esperienza estera. Credo che siano un po' più civili di noi sotto questo aspetto. Allora, lei viaggiava con un seggiolone richiudibile da agganciare al tavolo, con una serie di pennarelli prettamente ecologici da utilizzare per imbrattare le tovagliette usa e getta dei ristoranti. Il bambino è stato con noi ed eravamo una ventina di persone, un ristorante stracolmo, 2 ore a tavola, ha mangiato, si è divertito e non ha assolutamente disturbato nessuno. Qui c'è una capacità di gestione diversa, diciamo, capacità di intrattenimento diversa. Di autogestione del figlio, esatto. Uno non può pensare che sia compito del cameriere poi. E poi lo scatenamento, è logico, come ha detto l'ascoltatrice prima, che un bambino da un anno ai 3-4 anni è difficile tenerlo più di un'ora seduto, fermo, buono, immobile. È difficile fermare la sua ansia ad avere il cibo pronto come abituato a casa quando deve fare un po' di aspettativa. È anche fastidioso, capito? Tutto questo però va messo nel grande pacco che ci sta, chi decide di fare figli e mettere su famiglia. C'è anche questo. Per un certo periodo della tua vita, la tua vita sociale è condizionata dai figli. Perché così è sempre stato e così sempre sarà, lo dico per gli innamorati dei metodi naturali. Naturalmente che hai figli in parte della sua vita, a meno che non abbia una servitù ampissima e li veda soltanto per dargli il bacino della buonanotte, è impegnato nel gestire i figli. Pierpaolo. Pierpaolo, buongiorno. Buongiorno, io volevo dire che sono assolutamente d'accordo per quanto riguarda il problema dei bambini che se non sono in grado di stare a tavola in modo decente, ovviamente non dovrebbero stare in un ristorante o perlomeno in un ristorante di un certo tipo, di un certo livello. E solleverei anche il problema però dei genitori che sono assolutamente maleducati, cioè io ultimamente non vado più a mangiare fuori perché il piacere del pasto mi viene assolutamente meno in considerazione del fatto che questa gente... Mi faccia degli esempi, così capiamo anche, parlare. Perché sennò parliamo in astratto, mi faccia degli esempi di sua esperienza recente, riferibile, su bambini che hanno inquinato il piacere di starsene magari una sera al ristorante. Ma guardi, chiaramente capita di avere questi bambini che, come è già stato detto, corrono tra un tavolo e l'altro, urlando, eccetera, per cui in pratica non è possibile stare a tavola in modo decente. Allora, diciamo, vediamo di classificare gli elementi di disturbo. Un elemento di disturbo è lo scatenamento di corsa dei bambini per la sala del ristorante, che sembra la cosa più... Corrono corrono avanti e indietro per la sala. Urlando, naturalmente, inseguendosi, buttandosi per terra, piangendo, quando cadono. I bambini sono bambini, non me la prendo con i bambini, sono i genitori che... I genitori sono impassibili, continuano a stare al loro tavolo e a parlare con gli amici come nulla fosse. I genitori sono altrettanto maleducati perché continuano a loro volta a urlare, per cui in pratica non si può parlare a tavola. Diciamo, l'elema è caduto... E questa è la domanda che pongo anche agli ascoltatori, 800240024, di provare a far capire ai genitori che in realtà il comportamento dei figli disturba. Perché qua vorrei capire qual è la reazione. Se io dico al genitore di bimbo minchia, che a sua volta è bimbo minchia anche se ha dai 30 ai 45 anni, dice: guarda, tuo figlio sta lievemente frantumandomi le palle, puoi far qualcosa, ma glielo dico gentilmente. Probabilmente c'è una levata di scudi, diranno salza il padre, magari prova anche a metterti le mani in faccia. Vorrei capire anche questo. Gianluca, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo dare un attimo un'esperienza opposta per quanto riguarda l'estero rispetto a quello che ha detto l'ascoltatore precedente. Sì. Io viaggio spesso negli Stati Uniti e noto che comunque nei fast food o nei vari Taco Bell, McDonald's, la situazione è Simile. Quelli sono fatti a posto. Beh, oddio, ci deve essere dei posti dove non può portare i figli, se no diventa discriminatorio. Se uno va al McDonald's... A punto di risultare classista, ci sono posti in cui tendenzialmente i bambini sono più tranquilli, altri in cui lo sono... Al McDonald's è il posto dei bambini, non va a fare una cena a lume di candela al McDonald's, chiaro, non va per stare tranquillo, è un posto di casino. Chiaro, io penso ci sia una leva, comunque quello che fa leva un po' sui genitori, sul fatto che gli permettano di essere così scatenati, cioè il fatto che un po' il bambino, no, viene visto un po' da loro come una cosa talmente miracolosa, talmente intoccabile. Perfetto, lei ha toccato il punto. c'è la vanagloria e la spocchia di ostentare questo miracolo che è scaturito dai loro fecondi lombi e dire guarda che ho fatto un figlio in un momento così raro, e quindi devi sopportartelo perché io ho svolto una funzione sociale che non è affatto come così. Se avere un utero fosse un qualcosa di miracoloso, capito, sembra un miracolo. Perdoni, però io passo sempre per quello cinico e poco simpatico, diciamo, nei ristoranti quando ovviamente la situazione lo permette, dimostro anche il mio dispiacere nel sentire queste urla incontrollate, a costo di risultare comunque, ripeto, antipatico anche con per le persone con cui sto, però comunque è davvero... Guardi Gianluca, davvero... lei parla a una persona che figli l'ha levati e l'ha avuti, quindi non c'ho nessun problema. Neanche intenzione di averlo. No, io dico no Gianluca, dico io, perciò rispetto alla sua esperienza, è uno che c'è spassato in mezzo, quindi lo dico con maggiore ragione di causa. Ah, parlava di sì. Dico, il senso che mi sembra che vogliano instillare questi genitori è quasi un senso di colpa nelle altre persone, dice come io ho fatto i figli. Tu che sei lì magari a passare una serata amena, dedita e finalizzata alla lussuria, al piacere, renditi conto che devi prenderti parte del mio onere, del fatto che imporre un qualcosa che sembra speciale ma che in realtà non lo è. Ma non lo è affatto, è un figlio niente speciale, è una cosa che si fa, l'hanno sempre fatto da quando esiste Adamo ed Eva o qualcosa del genere, quindi hai semplicemente copulato, fatto un figlio e te lo tiri su perché te lo sei fatto, giustamente, te lo sei inseminato e fatto come hai voluto, c'hai un figlio però tientelo. 800240024. Vorrei però sentire l'altra parte, sennò sembra che siamo tutti d'accordo, la trasmissione a senso unico. Voi genitori avete dei fantastici figli, è vero che potete impugnare il diritto di portarli ovunque, perché avete diritto di andare ovunque, altrimenti è discriminazione. Insomma, il bimbo minchia è un bene gestibile dalla collettività e tale deve rimanere secondo voi? Aspetto il vostro punto di vista. Al via dal 22 gennaio le iscrizioni a scuola. Ma come aiutare i nostri ragazzi a scegliere le superiori? I consigli di Radio 24, venerdì 22 gennaio a Cuore e Denari dalle 10.30 e giovedì 28 gennaio nello speciale scuola. Quale scelta per i nostri figli? Dalle 21. Le vostre domande in diretta o via mail a scuola@radio24.it. Melog. Cronache meridiane. Come va? Sara, sono Lorenzo, il papà di Daniele, sì. Ti ricordi? Senti, mi passi papà, per favore? Come fa il micio? Miau miau. Come fa il grillo? Ma il grillo fa cri-cri, lo sai, no? No, tu adesso passami papà. Come fa la pecora? La pecora fa beh, il gallo fa chicchirichì. Sara, ti prego, passami il papà. Io... Ma non li conosco tutti. Da anni ormai Salina era dominata dai figli unici. Ogni famiglia... Pio pio! Il pulcino fa pio pio! Ogni famiglia aveva un figlio solamente, a cui veniva affidato il comando della situazione. Uno potrà dire quello che vuole su Nanni Moretti, ma è stato fulminante nel cogliere alcune magagne totali della società terrazziera romana e quindi spalmati anche sulla classe media di italiani che portano il bimbo minchia al ristorante disturbando il resto del mondo. Il figlio unico degli abitanti di Salina, cioè erano romani che andavano a Salina perché erano la casa, le olie, che era fighissimo e via dicendo, era il piccolo principe che comandava esattamente l'emotività non solo della famiglia, costretta ad andare a letto perché c'era la notte del lupo, avevano paura e via dicendo, ma tutti gli amici di famiglia devono essere monopolizzati da questa sorta di egemonia a cui centro c'era il piccolo Buddha, c'era questo piccolo dio in terra che determinava lui quello che devono fare tutti. Stefano, buongiorno. Buongiorno. La sto ascoltando, lei ha un elemento di cronaca molto interessante da aggiungere a quanto stiamo dicendo. No, è molto simpatico, in un ristorante qui in Friuli c'è scritto, c'è un cartello dove c'è scritto: i bambini lasciati incustoditi verranno venduti come schiavi. È un modo simpatico, credo, per mettere l'accento su questa malgestione che a volte i bambini... Però lei mi sta dando una notizia, Stefano. Anche in Friuli, io penso a questo fenomeno del bimbo minchia scatenato fosse un fenomeno centro-meridionale l'Italia, ma Esattamente, io stavo per dire a Bolzano non accade, a Trento non accade, ma invece no. Succede anche in Friuli. Assolutamente, assolutamente. Ah, quindi ormai è diffuso in tutto il paese il malessere. Sì, credo di sì. Credo che il limite opposto sia anche quello un po' dell'assenza di luoghi che anche nella periferia erano gli spazi aperti fuori dai ristoranti, che sono diventati dei parcheggi, che sono diventati dei posti dove il bambino non può più giocare, no? Perché una volta, almeno io credo, siamo quasi coetanei, io ne ho 54 di anni, quando ero ragazzino era normale mangiare la bistecca di corsa e uscire e trovare. Sì, perché si andava in quelle trattorie in campagna, poi fuori uno si scatenava, correva, cioè quello che voleva. La domenica accadeva, però qua si parla diverso. Qua è gente che la sera esce, magari esce il sabato sera con i bambini al seguito, perché non vuole pensare all'idea, non trovando babysitter, che debba rinunciare alla sua serata con gli amici. E invece accade questo. I figli sono un massacro bestiale. Per questo la gente oggi non li fa più. Perché non è che sia una passeggiata, li fai e metti lì, stan buoni, come nei telefilm. No, non è così. Comunque, in Friuli c'è questa sorta di cartello: i bambini lasciati incustoditi saranno venduti come schiavi. Paola, buongiorno. Buongiorno, io non ho purtroppo cartelli perché ho una sola esperienza da dire. Ho girato per alberghi italiani e stranieri con mio marito invalido e devo dire sinceramente che anche la presenza di bambini in alberghi diciamo decenti, ristoranti in alberghi italiani e francesi, e tedeschi. Lei non è italiana, signore? Ecco, erano... No, dico, lei è italiana, Paola? Io sono italiana, abito a Milano e purtroppo mio marito non c'è più. Allora, racconto questa piccola cosa. In un albergo, buon albergo in Sardegna, eravamo seduti dove il personale che teneva aveva ci fatto un favore gigantesco dando un tavolo in cui potesse accedere la carrozzina di mio marito. Da un certo giorno in avanti sono scatenati questi bambini allucinanti da cui io doppiamente faticoso per suo marito che già aveva problemi a muoversi in un ristorante non attrezzato. Non parola, perciò si può immaginare non riuscivamo a scambiare una parola. Allora a un certo punto io ho significato al direttore della sala che non così che mi cambiasse posto, chiaro? Bene, no. Allora ho dovuto andare dal direttore dell'albergo, persona peraltro deliziosa, la quale alla fine, dopo infiniti problemi eccetera eccetera, ci ha spostato. Non ho chiesto che i bambini andassero via, ho chiesto un iter spaventoso per chiedere che mi spostassero il tavolo in un'altra stanza. Ma lei non osava rivolgersi ai genitori dei bambini e dire teneteli un po' a bada se possibile? No, non ha osato nemmeno, ha capito che non era... No, non ho osato. Se vuole che le dica. Non ha voluto rischiare, ma giustamente, io capisco che... No, non volevo avere reazioni già... Uno scontro fisico, giustamente. Erano disagiati, le cene erano disagiate, per cui ci manca anche il litigio con i vicini di tavolo. Lei è molto saggia Paola. Marco, buongiorno. Sì, buongiorno. Secondo me il bimbo minchia sono i genitori, non tanto i bambini. Giustissimo, io ho allargato il termine alla progenie per simpatia. Il bimbo minchia in realtà ha 30 anni. E questo... Assolutamente sì, perché è una questione di educazione a 360 gradi, nel senso di dire che anche al McDonald's ci vuole l'educazione. Non è perché uno va al McDonald's con i figli allora può... Sì, però al McDonald's può fare la festa di compleanno dei bambini, è chiaro c'è casino. Sì. No, è per dire che comunque... una questione di educazione, un livello di educazione si deve tenere ovunque. Il problema è poi il genitore, io sono genitore di due figli, uno di 2 anni e di 4 anni, non li porto al ristorante d'élite o comunque un ristorante... Ma non occorre d'élite, basta un ristorante che è una sala piccola e cui la gente vuole stare tranquilla. Assolutamente sì, ci sono i ristoranti familiari, se voglio fare un'uscita con mia moglie una sera perché voglio stare in un posto un pochino più ricercato o comunque voglio mangiare un qualcosa di diverso, i figli cerco di trovare una soluzione, però non li porto, ma di default, di testa, non si può non rinunciare a nulla, questo deve essere fatto. Purtroppo un bambino piccolo richiede alcune scelte anche per la famiglia, a meno che la famiglia abbia un livello economico talmente elevato che abbia continuamente persone a casa che se ne occupano dei figli, ma se devi portarti il figlio dentro perché, dietro, perché l'unica maniera per andare a fare la cenetta con gli amici nel locale carino in cui andavi quando ancora non avevi il figlio, beh, questo non lo puoi fare, questo bisogna metterselo in testa, perché anche al massimo livello di contenzione dei figli, tipo qualcuno li ipnotizza, gli mette i collari elettrificati, più di tanto un bambino non può starsene fermo in un ristorante, lo ammazzi un bambino in un ristorante, cosa fa? Poi ci sono problemi. Nel ristorante ci sono una serie di bicchieri che sono pericolosissimi per i bambini. Bisogna cominciare a far togliere i bicchieri. Le posate sono pericolose. I piatti stessi non sono adatti a farci mangiare un bambino sopra. La tovaglia non è adatta perché il bambino la tira e rovescia tutto. Non c'è mai il cibo adatto. Bisogna andare lì, mi scalda il biberon. Mi fa l'hamburger, però me lo fa senza carne, cotto poco, cotto al vapore. Mi fa le verdurine, però non ci metta le verdure, ci metta qualcos'altro. Non è possibile. Uno va in un posto specializzato per bambini e lì li porta. Paolo. Buongiorno, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Io sono d'accordo con l'ascoltatore che ha appena chiamato e secondo me è una questione di educazione. Porto l'esempio di quando ero piccolo che c'era mio padre non era uno che alzava la voce o gridava, però bastava lo sguardo e noi tornavamo a posto nostro. Io ho tre figlie, bravissime, vado d'accordissimo con loro, le porto dappertutto e non ho mai avuto un problema del genere e soprattutto mai trovato un posto dove ci fosse il cartello con scritto i bambini non sono ammessi se non in cucina. Ma io penso l'abbia fatto questo signore, era la condizione che non continuasse a lavorare. 100 coperti non è tanto, è una sala non grandissima, un ristorante di pesce in cui si presuppone che le persone vanno con certe aspettative perché telefoneranno prima, prenoteranno, non possono poi il ristorante di pesce il bambino non ci va perché il pesce è la prima cosa che il bambino non mangia. Guardi, puoi chiedere i sofficini o i ferletti di merluzzo di Capitan Findus quando vai lì, è chiaro, è normale. Io sono convinto che sia anche una questione di predisposizione da parte dell'esercizio commerciale, perché dove i posti che frequentiamo noi, a parte che sappiamo essere collaudati da noi, quindi lì problemi non abbiamo mai avuto. Poi hanno, per dire, le faccio un esempio, la tovaglietta dove i bambini mettono il piatto, sul retro ha dei disegni da poter colorare. Sì, ce ne sono tantissimi, infatti, quindi, apposta, le pizzerie specializzate. Per me è una questione di educazione e di predisposizione, poi tutto si può fare. C'è gente che ammette anche il cane insieme ai bambini in posti. A me, devo dire onestamente, quando mangio mi dà fastidio avere un cane che mi gira per i piedi. Ma io, guardi, ho avuto cani in tutta la mia vita. Sono nato e vissuto in campagna, avevo le mucche nella stalla fino a 10 anni, a 10 metri da camera da letto, quindi figuriamoci se ho fastidi congeniti nei confronti degli animali. Io quando mangio il cagnolino che mi sguazza all'intorno, che mi biascica dentro la ciotola, o che sento quell'odore di pelo di cane, mi dà un po' fastidio. È un mio problema, che al cane deve capire che non può imporlo agli altri. Però vedete che assimiliamo molto spesso gli animali ai bambini, ormai è entrato nella nostra percezione generale che alla fine è la stessa cosa. Barbara, buongiorno. Allora, buongiorno. Io sono un'insegnante, sono una mamma di due ragazzi ormai adulti e il mio problema è stato all'epoca completamente capovolto. Io quando avevo i figli piccoli non solo dovevo studiare, preparare dei concorsi, avevo necessità di uscire, di fare la spesa, mio marito lavorava, oppure di uscire qualche volta a cena fuori con gli amici. Bene, io ho preso, diciamo, una decisione. Una professione meravigliosa è quella delle babysitter. Si prende una babysitter, si spendono dei soldi malamente in 2000 giocattoli, vestiti, scemenze, alimentazione sballata, eccetera. Bene, si risparmia, si paga una babysitter, i bambini devono andare a letto presto la sera, devono dormire dopo pranzo, devono fare una vita regolare. Sì, perché non abbiamo detto, aspetti, non abbiamo detto il lato che ci eravamo dimenticati. A un certo punto si addormentano i bambini, quando sono scatenati, si addormentano. C'è il problema, il bambino abbioccato sì, sulla sedia, abbioccato sul divanetto, abbioccato per terra, abbioccato. Vergognoso da vedere. Che fa anche pena. I miei fumavano pure le persone dentro i locali. Ferma un attimo, devo dare la linea. Molto chiaro, la signora ci ha detto che esiste una maniera per gestire anche il sacrificio sublime di essere madri, pagarsi una babysitter. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Voglio essere la prima a trovare un biglietto dorato, papà. Lo so, Angelo, stiamo facendo del nostro meglio. Tutte le ragazze del reparto stanno lavorando per te. D'accordo, e dov'è? Perché non lo hanno ancora trovato? Verusca, tesoruccio, ma credi che sia un mago? Dammi il tempo. Io lo voglio adesso. Che cosa fanno quelle cretine là sotto? Sono già 4 giorni che tutte le ragazze della fabbrica non si muovono dal bancone e non hanno sbucciato nemmeno una nocciolina da martedì. Non hanno fatto altro che aprire tavolette di cioccolata dalla mattina alla sera. E tu metti il turno di notte. Anche nella fabbrica del cioccolato c'è Verusca, bambina viziatissima con la tavoletta di Willy Wonka, per vincere il meraviglioso giro nella fabbrica del cioccolato, ma anche lei poi sarà barbaramente punita del suo essere così viziata. No, questo non accade nei nostri ristoranti, perché escono più tronfi, felici e satolli di prima le famiglie con i bambini. O avessi telefonato una persona per dirmi: io voglio il diritto di portare il mio figlio, per quanto confiscato, in un ristorante. Eccola, Jessica, buongiorno. Buongiorno, io sono Jessica e sono una mamma e non sono per nulla d'accordo invece con la linea che lei sta tenendo in questo programma. Io sto chiedendo disperatamente a persone che mi contrastano. Per quanto io sono assolutamente d'accordo sull'educazione che bambini che bisogna far tenere bambini, io ne ho 6, i miei figli me li porto talvolta se il locale secondo me lo consente. Quando vengono stanno seduti a tavola, ma l'educazione non vuol dire vietare ai bambini l'ingresso, perché quella allora è altrettanta maleducazione e discriminazione da parte di chi il locale lo gestisce, senza contare i luoghi comuni che avete detto. Me ribadisca qualcuno. Ad esempio, non è vero che i bambini, uno porta i bambini al ristorante e chiede la verdurina al vapore e quant'altro. Spesso i bambini sono in grado di mangiare, se educati correttamente, quello che mangiamo noi. Vorrei far presente quante tavolate di adulti infastidiscono quando alzano troppo la voce e fanno risate o battute sconce, e magari tu sei lì con i bambini o sei lì col tuo ragazzo e senti quelli che parlano di chissà dove sono andati la notte prima. I ristoranti sono luoghi per adulti, io voglio essere libero, certo, di parlare di quello che voglio al ristorante, non pormi il problema della signora, asilo. Certo, però può dar fastidio a me. Nel senso che la maleducazione o l'uso di alcuni termini o di alcune immagini riferite magari alla donna piuttosto Facciamo un esempio, Jessica, così capiamo meglio. Voglio dire, tavolate di ragazzi che vanno nei ristoranti, alzano troppo il gomito e cominciano a ridere in maniera... È brutto. Sì, però uno con l'adulto se la vede. Jessica, con l'adulto se la vede. Se un uomo alla fine, o una donna... Ma no, non me la vedo io con un adulto che magari ha alzato il gomito. No, uno va dal ristoratore e dice... quello è logico, quello rientra nei limiti, uno può anche chiamare la polizia. C'è qualcuno ubriaco e dà fastidio in un ristorante. Questo è un discorso. Quanti fra adulti. Quanti di noi sono stati costretti a tollerare magari invece l'adulto seduto di fianco alla tavolata di adulti che esce, pensano di avere 20 anni e ne hanno 45, sono anche patetici nel loro l'umanità in sé è patetica, no? Allora, se uno vuole il buon gusto, il buon senso vale per tutti. Sì, però Jessica, mi faccia parlare. Jessica, si fermi un attimo, però, perché sennò sono costretto dopo a segarla. Lei mi ha fatto un esempio perfetto di madre modello con 6 bambini educatissimi che li può portare ovunque. Benissimo, onore al merito alla sua famiglia, però capisce che il ristoratore non è che si trova davanti sempre una Jessica che ha la sua scaletta di bambini ordinati come se fosse una fila di chierichetti. Non è così, purtroppo non è così, e non c'è altra maniera di dire non li voglio più i bambini, perché dico, persone come lei ce n'è una ogni 100.000. Guarda che parlo di una persona che ha avuto figli, che ha gestito figli, so di cosa si tratta. Non mi può escludere che esistano delle famiglie che portano i figli in giro in maniera indiscriminata e non li sappiano gestire. Lei ne ha fatti 6, l'aveva fatti a piena ragione e sa esattamente come si tirano su 6 figli. Non credo che abbia nemmeno il fiato o il tempo di pensare che sia un insieme disordinato umano. Se figli o li tieni ordinati o se no è impossibile gestirli. No, ma il problema non è quello, il problema è il punto su cui uno parte, cioè si parte con dei pregiudizi. Si parte col pregiudizio che il bambino vuole la verdurina al vapore, che il bambino... Questo ho detto io, me ne prendo la responsabilità io. Beh, perché non può succedere? No. quando invece ci sono locali aperti ai cani che possono dar fastidio a chiunque. Io sono il primo a dirlo. Chi lo dice? Sono il primo a dirlo. No, questo l'ho sentito che lei l'ha detto. Quando, ripeto, ci sono tavolate di gente, di adulti, che sanno essere molto più fastidiosi talvolta che il bambino che è lì a disegnare con ma siamo d'accordo. Sì, ma lei non faccia difesa d'ufficio delle sacre famiglie italiane. È chiaro, l'abbiamo detto, il suo è un esempio illuminato. Ci sono oggettivamente famiglie che non sanno gestire i figli e sono la maggior parte delle famiglie con bambini piccoli che vanno in luoghi non adeguati ai bambini. Gli adulti maleducati, un ristorante di livello, di qualità, non li fa nemmeno entrare, li fa alzare, li caccia. La gente maleducata che strilla non sta nei ristoranti in cui uno vuole star tranquillo, non ci vanno nemmeno, uno in questo sceglie, se no si contamina con l'umanità. Se io vado al pub o vado alla birreria, ci sta che la gente mi fa i rutti nelle orecchie, non mi posso lamentare. Alberto, buongiorno. Buongiorno a lei, pronto? Sì, l'ascolto. Nicoletti, io sono sordello della tua terra, ti sento sempre volentieri. Bravo. Sono perugino come te. Lo so, ma io sono scappato e non ci tornerò mai più. Andiamo avanti, cambiamo argomento. Comunque tu sai il numero di telefono. No, ma non voglio sapere niente. Vada al punto, faccia la risposta. Ecco, una testimonianza. Io abito a Modena e ho visto... è scappata anche lei, tanto perugino. Sono andato al ristorante di media grandezza. C'era una sala divisa in due parti con due babysitter che attendevano al necessità, li facevano giocare, divertire, due sezioni di bambini, una decina dai 2 ai 5-6 anni. È un posto civile che c'è attrezzato. Un posto giustamente attrezzato in cui chi vuole portare i bambini ha anche una sala di contenimento per i bambini con una babysitter. Si è attrezzato e ha risolto il problema. Ma il signore c'ha solo una sala con 100 coperti, non è che può pensare a mettere vicino una dependenza per i bambini. Gabriella. Buongiorno. L'ascolto. Io volevo portare la mia testimonianza. Ho vissuto 8 anni in Polonia, 5 anni in Etiopia e ho viaggiato molto in tutto il mondo. È raro che in questi paesi, in altri paesi, mi sia capitato di subire le violenze di bambini irrequieti e minchioni, come dice lei. Bimbo minchia è diversa, minchione è un'altra cosa. Bimbo minchia è una caratteristica che può iniziare anche ai 2 anni, ma si potrae fino oltre i 45, a volte anche 50. Sì, sono d'accordo, perché i problemi di questo tipo io li ho avuti, scusate, soprattutto in Italia. Certo, sono d'accordo. Io, infatti, mi spiace che la signora da Family Day mi chiama e mi dice che lei ha 6 figli e non può sentire le parolacce. Li porti alla mensa parrocchiale, così almeno non ha problemi. Gabriella, magari... Gabriella, lei l'altra donna, Luciana. Sì, eccomi, buongiorno a tutti. Su 2 piani. Uno, quando si portano i bambini al ristorante, nel conto della serata fuori si mette il conto della serata più 20 euro di babysitter. 20 euro magari negli anni 50, oggi con 20 euro fa poco, minimo 40. No, ci sono queste ragazze che studiano, che lo fanno. Sì. La seconda cosa... Bisogna anche lasciarle in mani sapienti, non è che uno deve tornare a vedere una ragazza legata al palo della tortura. No, di certo. Allora, poi io abito a Milano, da casa mia alla Svizzera sono 38 chilometri. Se lei va in un ristorante là, non vede bambini legati alle gambe del tavolo, né con cinturini di contenimento che li tengono fermi. Nemmeno esseri umani viventi, però, vede delle mummie. No. Non deve anche andare in mezzo alla gente. Allora io dico che su certe cose si può anche copiare da chi il problema l'ha già risolto. Quindi lei va in Svizzera perché almeno trova posti tranquilli. No, io non vado in Svizzera, ma mi succede di andarci, visto che è così vicino. Insomma, in Svizzera, guardi, possiamo dire, in Svizzera non ci sono le macchine parcheggiate, perché c'hanno i parcheggi sottoterra, in Svizzera tutti pagano le tasse, in Svizzera non c'è una cartaccia per terra. C'è sempre una Svizzera da qualche parte, ma io voglio andare a Erbuiaccaro o Erparolaccia e mangiare tranquillo, senza bambini fra i piedi, questo è il problema. Maurizio. Eccoci, sì, buongiorno. Allora, premetto che sono d'accordo con la signora insegnante di prima della pubblicità. Certo. Io ho 3 figli, 2 gemelli, i primi, e quando li ho avuti abbiamo messo in conto di rinunciare al ristorante per qualche anno. Gli amici li ricevevamo a casa, così i bambini erano sereni, tranquilli, andavano a dormire, giocavano, facevano quello che volevano. Una piccola esperienza di Brunico l'anno scorso. Veloce, chiudiamo, sì. Era un ristorante con mia moglie, 2 bambini che facevano impazzire tutto il ristorante. Il titolare si è avvicinato ai genitori e li ha posti davanti alla scelta. o terminate qui e vi levate pranzo, le palle e ve ne andate, esattamente. Mi sembra perfetto, è stato bravissimo l'albergatore di Brunico. Alla prossima, grazie.